Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan, che osserva l'attualità e legge le notizie attraverso un filtro molto speciale. Raccontiamo i fatti di cronaca italiani e del resto del mondo per analizzare il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo dire con questo che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 762, parleremo di microplastiche, parleremo dell'omicidio dell'orsa amarena, parleremo dei cinghiali della Maddalena, parleremo di gattini, ma anche di dinosauri. Ci sarà spazio per una ricetta vegana, cruelty free e per un po' di ottima musica. Speriamo di avervi incuriosito. Partiamo per questa puntata con una notizia positiva, smentendo la normalità della cronaca che vede i viventi di altre specie sempre al centro di notizie tristi, deprimenti, violente. Stavolta è andata diversamente. Si è conclusa con il lieto fine la disavventura di 3 gattini di 40 giorni che erano rimasti intrappolati nel condotto di areazione di un edificio in provincia di Chieti. Alle operazioni di recupero hanno contribuito l'Ente Nazionale Protezione Animali, i Vigili del Fuoco, i Nuclei Speleo Alpino Fluviali, il Sindaco, la Protezione Civile, le Forze dell'Ordine e la ASL. Mercoledì 27 agosto su Facebook erano apparse richieste di aiuto di un uomo proprietario di un edificio che raccontava di avere dei gattini intrappolati nel vespaio, scivolati in un tubo che scende per oltre 1 metro di profondità. Una gatta piangeva disperata all'imbocco del condotto e aveva allertato l'uomo e commosso l'Italia intera perché la notizia era diventata subito virale. I suoi gattini non erano facilmente recuperabili perché erano in un locale che costituisce la fondazione del fabbricato, realizzato internamente in cemento armato senza aperture, profondo e inaccessibile. Ci sono stati confronti tra associazioni, istituzioni, sindaco, vigili del fuoco. Sembrava che l'unica soluzione fosse un intervento costosissimo, molto invasivo. Poi si è riusciti a contattare il progettista del palazzo, che ha suggerito una soluzione meno impegnativa, che è stata messa a segno domenica 1 settembre, rompendo il pavimento che il proprietario ha accettato di rovinare per tentare questo recupero. EMPA si è impegnata a coprire le spese di questo scasso e d'altra parte lasciarli in quella intercapedine sarebbe equivalso a condannarli a morte. Ormai c'era troppa mobilitazione intorno a questi gattini, che nel frattempo sono stati alimentati con del cibo e dissetati con dei cubetti di ghiaccio che venivano fatti passare attraverso questo stesso tubo che era stato un po' l'origine del problema. Per la loro salvezza è stato quindi risolutivo l'intervento dei vigili del fuoco, che con pazienza e professionalità sono riusciti a trarre in salvo una alla volta i gattini. L'ultimo, il più restio, è stato recuperato nella notte del 1° di settembre. Non erano gatti di proprietà, erano animali selvatici e liberi e questo rende ancora più meritorio l'intervento. È stata una corsa contro il tempo, siamo rimasti con il fiato sospeso fino a tardanotte, dichiara Carla Rocchi, presidente nazionale di EMPA. È stato un recupero eroico possibile grazie all'impegno e alla collaborazione di tutte le istituzioni che si sono adoperate per raggiungere questo risultato e noi siamo contentissimi. Adesso parliamo di storia, ma anche di geografia. Sono oltre 260 le impronte di dinosauri che sono impresse da 120 milioni di anni, che sono state scoperte tra il Brasile e il Camerun, in quella zona dove 120 milioni di anni fa un ponte, un'ultima lingua, diciamo, di terra, collegava il Sud America con l'Africa prima che i due continenti si separassero definitivamente. Questo affascinante studio è stato pubblicato agosto di quest'anno nel New Mexico Museum of Natural History and Science ed è stato condotto da un team internazionale di esperti guidati da un noto paleontologo del Texas. Le impronte sono simili per età, per forma, per contesto geologico e sono impresse nel fango e nel limo lungo antichi fiumi e laghi, trovate a 6.000 km di distanza su sponde opposte dell'Oceano Atlantico. La maggior parte di queste è stata creata da dinosauri teropodi, cioè a tre dita, mentre altre appartenevano probabilmente a goffi sauropodi a quattro zampe con dei colli molto lunghi e delle code, oppure a ornitischi che avevano strutture scheletriche simili a quelle degli uccelli. Dinosauri, questi antichissimi animali, hanno lasciato dunque queste tracce 120 milioni di anni fa sul supercontinente Gondwana, che si era già staccato dalla grande massa continentale Pangea. Una delle più recenti e strette connessioni geologiche tra Africa e Sud America era il gomito del Brasile nordorientale, che si trovava proprio incastonato contro quella che oggi è la costa del Camerun, il Golfo di Guinea. Precisa questo il paleontologo Jacobs, autore di questa ricerca. I due continenti erano continui lungo quello stretto tratto, così che gli animali su entrambi i lati della connessione potevano muoversi. L'Africa e il Sud America hanno iniziato a separarsi circa 140 milioni di anni fa, causando l'apertura di squarci nella crosta terrestre. Questi squarci sono stati chiamati rift. Mentre le loro rispettive placche continentali si allontanavano, la risalita di magma dal mantello terrestre ha creato la nuova crosta oceanica e poi lo spazio che si era aperto tra i due continenti è stato riempito dall'Oceano Atlantico meridionale. Sono testimonianze di eventi, queste orme di eventi antichissimi e testimonianze di questi eventi sono rimaste nei sedimenti e nei pollini fossili rinvenuti in entrambe le località dove sono state trovate anche le impronte dei dinosauri, nella regione di Borborema nel Brasile nord-orientale e nel bacino di Koum nel Camerun settentrionale. Che storia affascinante, si parla di animali misteriosi e affascinanti che ci hanno preceduto sulla Terra. puntata della settimana scorsa abbiamo parlato della condanna a morte dei cinghiali dell'isola di Spargi nell'arcipelago della Maddalena. Questa terribile mattanza è dovuta al fatto che un cinghiale avrebbe morsicato un bambino. Mentre la mattanza è in corso, però, ci sono delle affermazioni che troviamo interessanti che sono state fatte attraverso comunicati stampa dal presidente dell'Associazione Operatori Nautici del Nord-Est della Sardegna. L'episodio del bambino che è stato aggredito dal cinghiale e ferito a una mano ha portato appunto all'abbattimento degli animali. Ma Claudio Denzi, appunto presidente dell'Associazione Operatori Nautici, ha fatto la seguente affermazione. Certamente gli ungulati non avrebbero dovuto essere abbattuti, ma il discorso va molto oltre ai cinghiali. In realtà, ai cinghiali di Spargi, i turisti, nonostante sia proibito, danno incoscientemente da mangiare ogni cosa, persino gelati. Ricorda Denzi che da subito si è schierato contro l'abbattimento dei cinghiali che vivono in quell'area. In quest'isola sbarcano circa 6.000 turisti al giorno, portando ombrelloni, borse, scarpe, cibo, sigarette senza alcun controllo. E i più incoscienti danno da mangiare ai cinghiali per scattare un selfie. Se tutto ciò è permesso, non è certo colpa dei cinghiali. L'aggressione avvenuta a quel bambino incolpevole non è altro che la cronaca di un incidente annunciato. Il problema, insomma, è legato a una forma di turismo che ormai non è più sostenibile, con mezzi inquinanti che arrivano a trasportare migliaia di persone. La sparizione di queste spiagge per cause umane è, per il presidente dell'Associazione Operatori Nautici, solo una questione di tempo, come ha indicato anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche in una relazione del 2017, perché, e questo è un dato molto interessante, prendiamone nota, ogni persona che sbarca su questa isola asporta anche inconsapevolmente una media di 93 grammi di sabbia. Quindi immaginiamo che nel tempo quest'isola andrà a scomparire. Molto interessante questa informazione, molto interessante che gli operatori nautici facciano un ragionamento allargato sul turismo e sullo sfruttamento turistico delle isole, invece di concentrarsi sul solito capro espiatorio, in questo caso il cinghiale espiatorio. E noi siamo assolutamente d'accordo con loro. Del disturbo che gli umani arrecano all'ambiente e soprattutto agli altri viventi, vi proponiamo un appuntito commento dei Troglodita Tribe, amici della trasmissione Restiamo Animali, editori e autori di molti libri, molti testi antispecisti. Maledetto selfie. Uomini, donne e ragazzini che nel trambusto di una giornata vacanziera si avvicinano a un giovane fenicottero. Lo accerchiano, gli impediscono di muoversi, di nutrirsi, di zampettare nelle acque basse del mare. Che cosa vogliono? Questa volta non sono stati i cacciatori a mettere a repentaglio la vita di un uccello che cercava di raggiungere la riserva naturale delle saline di Cervia, dove avrebbe trovato la sua colonia, il luogo protetto che cercava di raggiungere dopo un lungo viaggio. No, questa volta non sono stati i cacciatori, ma i turisti, i bagnanti. Una marea di persone che lo volevano avvicinare, toccare, fotografare, volevano un selfie vicino al fenicottero, volevano un attimo di popolarità, perché anche il fenicottero è un'occasione da non perdere, un'immagine spettacolare che può contribuire a essere un po' più cliccati. E non importa se è stato diramato un appello da parte del centro di recupero animali selvatici, non importa se l'appello diffuso in tutte le spiagge tra Rimini, Riccione e Bellaria raccomandava di non avvicinarlo, di non disturbarlo, di non toccarlo, perché non era ferito e non aveva bisogno di niente, stava solo riposando e presto avrebbe ripreso il suo viaggio. Una sorta di delirio di massa ha costretto il centro a intervenire comunque, a sottoporre il fenicottero allo stress della cattura, proprio proprio perché quell'invadenza stava compromettendo in modo irreparabile la sua sopravvivenza. Hanno dovuto salvarlo, più che altro, dallo sguardo osceno della folla umana e l'hanno poi liberato nella zona protetta. A Capoliveri, un comune dell'isola d'Elba, verso sera una tartaruga caretta caretta ha tentato di avvicinarsi alla costa per deporre le uova, ma torme di bagnanti con tanto di maschere e pinne si sono tuffati in mare per guardarla da vicino. L'hanno spaventata, costringendola a tornare al largo. Un danno notevole, se si considera che la maggior parte di queste tartarughe, per nidificare, tornano sempre nella stessa spiaggia dove sono nate. Che cosa c'è di male in un selfie? Non è il selfie, ma la qualità del nostro sguardo a far del male. Guardiamo gli animali con curiosità, divertimento, stupore, con quel finto amore che li rende l'ennesimo intrattenimento, l'ennesimo diversivo. Anche se non stando dietro le sbarre di uno zoo, difficilmente pensiamo che dall'altra parte c'è qualcuno e non qualcosa che sta guardando noi, che sta ragionando sulla nostra presenza, sul nostro comportamento. Quando guardiamo gli animali in questo modo, non cerchiamo relazione, comunicazione, condivisione, ma incarniamo ancora una volta il classico ruolo dei padroni del mondo, coloro che osservano, studiano, giudicano e classificano. Ma poi che diamine, siamo in vacanza, dovremmo pur divertirci in qualche modo. Le nostre coste sono oggi occupate, spesso anche illegalmente, da stabilimenti balneari, ombrelloni, sdraio, chioschi, ristoranti, cabine. Sono letteralmente invase da persone che dimenticano troppo spesso di non essere gli unici abitanti di questo pianeta. Dall'isola di Spargi andiamo a nord-est, andiamo a parlare della sagra degli Osei di Sacile. Sfruttare gli animali, come sappiamo, è legale. La legge che tutela gli animali esenta tutta una serie di categorie. La sperimentazione scientifica è esentata, i circhi sono esentati e così gli allevatori, i falconieri, i cacciatori, gli zoo, insomma, ci sono tante categorie che trovano nella legge dei varchi per poter utilizzare animali selvatici, seviziarli, domesticarli. Sfruttarli quasi a piacimento. Quasi. Sì, perché ci sono pur sempre alcuni blandi controlli. Non tutti gli uccelli, per esempio, possono essere detenuti in gabbia. Solo alcune specie. E questi individui pennuti, alati, devono essere dichiarati avere un codice di riconoscimento. Ma questo viene vissuto male, se non malissimo, da chi sogna di poter ingabbiare tutto quello che vola, tutto il vivente, a proprio piacimento, per divertimento o per profitto. Di questa insofferenza ne hanno dato una esemplare dimostrazione quest'anno a Sacile durante la sagra degli Osei. Un nefasto raduno di allevatori di uccelli, persone che ingabbiano animali selvatici che dovrebbero volare, li tengono prigionieri e scambiano il loro tristissimo pianto in un canto bellissimo, apparentemente bellissimo. Ma dei canti disperati di questi prigionieri tristi viene fatto addirittura un concorso, che si chiama Concorso Canoro ed è una delle tante antiche, antiquate, insopportabili tradizioni che la modernità e il progresso dovrebbero riuscire a superare, così come i pali, le corride, i circhi, eccetera. Ebbene, quest'anno, il 1° di settembre, a Sacile, appunto, provincia di Pordenone, per la prima volta in 751 anni, gli allevatori non hanno aperto le gabbie degli uccelli, impedendo quindi l'avvio del Concorso Canoro più antico d'Italia. La decisione è stata presa come forma di protesta per i sequestri di volatili sempre più diffusi da parte delle forze dell'ordine in numerose manifestazioni ornitologiche e di settore. Quindi la sessantina di allevatori di uccelli giunti da tutta Italia, che ha promosso lo sciopero, ha spiegato di non voler partecipare al concorso perché sono stanchi di essere trattati come criminali nei controlli durante le fiere. È un segnale forte a livello nazionale, ha commentato Lorena Bin, presidente della Pro Sacile, che ha solidarizzato con i manifestanti. E speriamo che possa servire. A noi questo sciopero sembra più che altro un atto intimidatorio verso i pochi, anzi pochissimi controlli che vengono fatti in situazioni di sfruttamento animale. Siamo dalla parte degli altri animali. Siamo dalla parte delle guardie venatorie, della forestale, di tutte quelle limitazioni, di tutti quei lacci e lacciuoli con i quali questi allevatori non si vogliono confrontare. Noi ci auguriamo che invece queste limitazioni aumentino fino a mettere definitivamente fuori legge la barbarie del concorso canoro di poveri uccelli costretti in gabbia. Quello che viene scambiato per canto è soltanto il loro pianto disperato. Un'altra vicenda raccapricciante che dimostra quanto siamo abituati a sentirci liberi di perpetrare qualsiasi tipo di violenza, anche sproporzionata, quando si tratta di viventi di altre specie, è quella della morte dell'orsa amarena, a cui una persona ha sparato a sangue freddo senza che ci fosse motivo, senza che ci fosse un'aggressione in corso, senza che questa persona potesse sentirsi in alcun modo minacciata. Ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, la Procura della Repubblica ha chiuso le indagini preliminari a carico dell'indagato accusato di uccisione di animali aggravata dalla crudeltà e dagli spari pericolosi. Un commerciante del posto, infatti, sparò all'animale. Si tratta di un 56enne che ha sparato a questa orsa amarena, che era sulle sue quattro zampe quando le è stato sparato. E le è stato sparato da un colpo di fucile, una carabina 7.62. Al momento dello sparo l'orsa era completamente innocua. Questo risulta dalla relazione sulla necroscopia eseguita dal medico legale, indicato dalla stessa procura. Una radiografia ha confermato la morte per dissanguamento. Inoltre anche la relazione balistica ha chiarito che il colpo letale ha raggiunto la spalla dell'orsa, perforando il suo polmone. Al rumore dello sparo i suoi cuccioli si allontanarono e scapparono verso il bosco, cadendo poi in letargo e, per fortuna, non ci hanno rimesso la vita, ma potevano benissimo rimettercela perché senza la madre i cuccioli spesso non sono ancora in grado di essere autosufficienti. L'Organizzazione Internazionale della Protezione Animali, l'OIPA, che ha presentato denuncia alla procura per uccisioni di animali, a un anno dalla morte violenta del plantigrado ha commentato così: «La giustizia farà il suo corso anche se non restituirà Amarena ai suoi figli e a questa vita, ma chi l'ha uccisa deve pagare. L'associazione si costituirà parte civile nel processo». Conoscevate i policheti? Noi no, e ci ha meravigliato scoprire questi animali, questi vermi del mare, questi millepiedi del mare, ingegneri del mare, insetti operosi delle profondità marine, così fondamentali per gli ecosistemi costieri, che hanno fatto notizia recentemente perché, al solito, anch'essi sono in difficoltà. Sono in difficoltà a causa della presenza sempre più abbondante e diffusa di microplastiche nel Mediterraneo. I policheti sono piccolissimi organismi marini che costruiscono barriere di sabbia lungo le coste e che sono fondamentali per il benessere di questi ecosistemi. Ma uno studio italiano dell'Università di Pavia, di Bari e di Urbino, che verrà presentato al congresso della Società Geologica Italiana, sostiene che tutti gli ecosistemi terrestri e marini sono afflitti dalla piaga dell'inquinamento da plastica, ma soprattutto l'ambiente costiero, che è quello che sta pagando il prezzo più alto perché rappresenta il punto dove la plastica, per lo più attraverso fiumi e scarichi, entra nel mare. L'Italia, afferma la dottoressa Nicoletta Mancin dell'Università di Pavia, che è tra i ricercatori coinvolti, l'Italia ha un territorio costiero molto esteso e in futuro l'inquinamento da plastica potrebbe portare a problemi molto seri in termini economici e di salute. I piccoli animali, i policheti, oggetto dello studio, costruiscono le loro case cementando tra loro i granelli di sabbia. Ma il problema è che adesso, al posto della sabbia, i policheti trovano sempre più spesso frammenti di plastica. Queste microplastiche causano un danno fisiologico ai piccoli policheti e, sebbene non si conosca ancora Se alla lunga possa portare conseguenze nella loro capacità di biocostruire, è giusto essere in allarme e monitorare la situazione. Vegan chef Gabriele Palloni, nella sua rubrica Il pasto gentile, propone ricette vegane senza crudeltà a tema e nel suo repertorio ha tantissime ottime ricette regionali. Questa settimana recapitiamo un messaggio di gentilezza e non violenza all'arcipelago della Maddalena in Sardegna, perché come abbiamo detto nell'isola di Spargi i cacciatori stanno facendo una carneficina di cinghiali. L'isola è stata letteralmente blindata per non ostacolare le operazioni venatorie. Per questo pensiamo che l'arcipelago sardo della Maddalena e l'isola di Spargi abbiano bisogno di una ricetta cruelty free. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Per i cinghiali della Maddalena, una dolce ricetta gallurese, tipica delle feste, ma da scoprire e gustare tutto l'anno. Il pane di sapa. Gli ingredienti per 4 panini sono 500 g di farina di grano duro, 325 ml di sapa, in pratica del mosto di uva, 200 g di mandorle, 200 g di noci sgusciate, 200 g di uvetta, 25 g di lievito di birra fresco, la scorza di un'arancia grattugiata, un cucchiaino di mix delle seguenti spezie in polvere: coriandolo, cannella, chiodi di garofano, anice stellata e noce moscata. Ammollate l'uvetta in acqua e quando sarà ammorbidita scolatela e asciugatela. A parte stemperate il lievito di birra in una tazzina di acqua tiepida e lasciate attivare per 5 minuti. Versate la farina in una ciotola, unite il mix di spezie e la scorza d'arancio e iniziate ad impastare assieme al lievito. Continuate lavorando con il mosto d'uva, conservandone circa 100 g per la decorazione finale. A fine lavorazione unite le mandorle e le noci che avrete precedentemente tritato grossolanamente e l'uvetta. Lavorate fino ad ottenere un impasto ben compatto che lascerete lievitare per circa 30 minuti coprendo con un canovaccio. Recuperate l'impasto e dividetelo in 4 parti, realizzando 4 panini rotondi che adagerete su una placca con carta forno e lascerete lievitare per ben 24 ore a temperatura ambiente, coprendo con un canovaccio. Nei mesi più freddi coprite anche con una coperta sopra il canovaccio. Trascorso il tempo necessario, recuperate i panini e spennellateli con il rimanente mosto, decorando la superficie con qualche mandorla intera. Cuocete in forno caldo a 180 gradi per circa 40-45 minuti. Lasciate raffreddare e gustate. Per questa puntata è tutto. Vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 763 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.